After two talks on understanding and handling afflictive emotions, today's talk will be on one particular aspect of Kayanupasana Satipatthana, namely mindfulness of bodily postures. Allora, dopo due discorsi su come riconoscere, come gestire le emozioni afflittive, questa sera tratteremo invece un aspetto di Kayanupasana, ovvero l'osservazione del corpo, e in particolare parleremo della contemplazione della postura, yes, o delle posture. Delle posture. Now, you will remember that the Satipatthana Sutta speaks of four establishments of mindfulness. And contemplation of the body is the first one, contemplation of feelings number two, and then we have contemplation of the mind, and the last one is contemplation of dhammas. Come vi ricorderete, il Satipatthana Sutta parla di quattro fondamenti della consapevolezza. Il primo è appunto la contemplazione del corpo, poi c'è la contemplazione delle sensazioni, piacevoli, dispiacevoli, neutre, poi c'è la contemplazione della mente e infine il quarto fondamento, la contemplazione dei Dhamma. No, the contemplation of the body is just a heading or main heading, and under this we find a number of subheadings. And so the Buddha speaks of mindfulness of breathing, as well as mindfulness of bodily postures, as well as clear comprehension of activities. Quindi la contemplazione del corpo è solo, come dire, un titolo principale. Poi ci sono dei sottotitoli all'interno di questa categoria, diciamo. E una è la contemplazione del respiro, poi c'è la contemplazione delle posture, e poi c'è la comprensione delle attività comuni. And suddenly we have contemplation of the parts of the body, contemplation of the four elements, and then the symmetry contemplation. So altogether six contemplations. The last one was what? Symmetry. Symmetry, yes, okay. E poi ne abbiamo altre tre contemplazioni, sempre in questa categoria del corpo. Allora, prima sono le parti del corpo, poi ci sono i quattro elementi, e poi la contemplazione che si fa al cimitero, quindi di un cadavere in decomposizione. No, you don't have to worry, we are not going to do cemetery contemplations here. Non vi preoccupate, non faremo quest'ultima contemplazione del cimitero. However, among the various contemplations that the Buddha has listed under contemplations of the body, it's not that we have to do all of them. We can choose one over the other. Tuttavia, tra questo certo numero di contemplazioni del corpo che ci consiglia di fare il Buddha, non è che dobbiamo necessariamente farle tutte. Potremmo sceglierne una o due all'interno di questo gruppo, diciamo. And so the main thing is really that we are mindful of something. So something related to the body. As long as we're mindful, for moment to moment, then we're okay. Quindi la cosa importante qui è essere consapevoli. Quindi essere consapevoli di questa componente, diciamo, del corpo. E se riusciamo a sviluppare questa consapevolezza continua, attimo dopo attimo, allora andiamo bene. No, let us see or hear the instructions that the Buddha has given for a mindful contemplation of bodily postures. And I'm quoting the Satipatthana Sutta. Again, monks, and by the inference, we can also include nuns and lay retreatants, when walking, one knows I am walking. Allora, vediamo un attimo le istruzioni che il Buddha dà riguardo proprio a questa contemplazione del corpo. Allora, qui cita proprio direttamente da Satipatthana Sutta e dice o monaci, e per inferenza ci sono anche monache o praticanti. Qui un monaco, appunto un praticante, cammina e sa di camminare, consapevole di camminare mentre cammina. When standing, one knows I am standing. Then when lying down, when sitting, one knows I am sitting. And when lying down, one knows I am lying down. Quando uno è in piedi, sa di essere in piedi. Quando uno è seduto, sa che è seduto. Quando è sdraiato, sa di essere sdraiato. Or, you know, one knows accordingly, however one's body is disposed. O, in altre parole, in un qualunque momento una persona è consapevole della posizione del suo corpo, come il suo corpo è posto nello spazio. Now, these certain instructions for mindfulness of certain bodily postures are, to be honest, very, how do you say in English, tears? Clear? No, very, very, extremely short. Ah, okay, yeah. Extremely brief. Quindi queste istruzioni che vengono date rispetto alla contemplazione del corpo sono molto concise. Can you say concise? You mean, molto brevi. Yeah, extremely brief. And molto, so, nette, diciamo, sintetiche. So, just by hearing, when walking, one knows I'm walking, does this give you a lot of information? Per esempio, il fatto di dire camminando, io so di camminare, questo vi fornisce tante informazioni? So, obviously not. Ovviamente no. No. Much needs to be, much more needs to be explored in order to understand what is actually meant by a mindful contemplation of postures. E quindi questo richiede ulteriori spiegazioni o indagini rispetto a quello che si intenda con questa contemplazione consapevole delle posture. No. By looking at certain of the instructions, we can see already or learn already one thing, namely that certain they are arranged by way of increasing refinement. So starting with the more active and grosser postures, such as the walking posture, and then mentioning the standing posture, and then the sitting posture, and finally the lying posture. Quindi una prima cosa che possiamo osservare è che sono messe in ordine sulla base della loro, come dire, di quanto sono raffinate. No? Quindi si comincia con il camminare, che è più grossolano, un'attività del corpo, e si passa poi alla posizione in piedi, poi quella seduta e quella sdraiata. Quindi gradualmente la postura viene vista come sempre più fine, sempre più raffinata. And so knowing the postures is nothing other than what is these days called proprioception, which is the ability to sense the location, the position and the movement of the body and its parts. Quindi la contemplazione del corpo non è altro che quello che adesso si chiama la propriocezione, no? E quindi la percezione del proprio corpo nello spazio, quindi e anche delle parti del proprio corpo, come si percepiscono nello spazio. Mindfulness of bodily postures needs to be carried out as continuously as possible. Quindi questa consapevolezza delle posture del corpo occorre svolgerla nella maniera più continua possibile. And so it's not just mindfulness of postures, but also continuous mindfulness of activities. E quindi non è solo la continua consapevolezza del delle posture, ma anche delle attività. No. In the course of a day outside of Sutna retreat, we engage in many different Sutna bodily activities. Nell'arco di una giornata fuori dal ritiro, noi ci occupiamo di varie attività. However, we are not necessarily always fully aware of the body and what is suddenly happening. Tuttavia non siamo sempre consapevoli del nostro corpo e di quello che sta succedendo. So, to give you a practical example, let's say we're on the way to work and suddenly then our main concern is just getting there, getting there in time. Per esempio, immaginiamo che di andare al lavoro, la nostra principale preoccupazione è quella di arrivare al lavoro per tempo, in orario. Or when we are engaged in some activity, let's say cooking, then we might certainly be more concerned about certainly the outcome of the cooking than awareness of the different activities. Oppure prendiamo un'altra attività come il cucinare. Quando cuciniamo potremmo essere più interessati al risultato di ciò che stiamo cucinando piuttosto che alle azioni che stiamo operando. And then we might certainly think, okay, once I've finished this, then what am I going to do next and so on and so forth. Oppure possiamo ritrovarci a pensare, vabbè, quando finisco questo, poi cosa faccio dopo? E poi dopo, e dopo, e così via. And it could also happen that certainly when we are engaged in some bodily activity, that our mind is somewhere entirely else. E potrebbe capitare che mentre siamo impegnati in un'attività del corpo, la nostra mente potrebbe trovarsi completamente da un'altra parte. And so, mindfulness of postures is meant in the sense that our mind is really anchored in the bodily activity, and suddenly the mind is not flying all over the place, being occupied about the result of the activity or getting lost in wandering mind. E quindi questo significa, la consapevolezza del corpo significa che la mente è veramente ancorata nel corpo, in tutto quello che sta facendo il corpo. E quindi non si disperde, per esempio, nella preoccupazione del risultato, oppure appunto non comincia a divagare, non è da un'altra parte. No. If the Buddha's instructions would have been only on mindful contemplation of the sitting posture, then there would be huge gaps. Yeah, because we're not going to spend an entire day just sitting. And so the Buddha has spoken of mindfulness of all four main postures, as well as any other way the body might be disposed of. Quindi se il Buddha avesse parlato solo della contemplazione del corpo nella posizione seduta, beh, ci sarebbero stati dei lunghi periodi di non attenzione, diciamo, di non consapevolezza, perché nell'arco della nostra giornata non passiamo molto tempo seduti. Quindi è per questo motivo che lui ha incluso tutte e quattro le posture e anche altre posizioni in cui potrebbe trovarsi il corpo. No, because all four postures are mentioned, plus the secondary postures or activities are also mentioned, it means that continuity of mindfulness is required. Quindi il fatto che siano menzionate tutte e quattro le posture e poi altre posizioni del corpo durante le attività quotidiane, allora questo sta a indicare che è richiesta una continuità dell'attenzione. And certainly so this mindfulness of certain postures then greatly helps to build continuity in the course of a day. E quindi questa consapevolezza delle posture ci aiuta a sviluppare la continuità della consapevolezza dell'attenzione nell'arco della giornata. And certainly there are certain traditions of Vipassana meditation where a lot of emphasis is given to the sitting meditation, but not much is certainly said about walking meditation or other activities. So the momentum of mindfulness and concentration and wisdom that gets built up in a sitting meditation, then in the following period between sits, they might get lost again. Mm-hmm. Did you say in the Vipassana tradition? Some. Sì, ci sono alcune tradizioni nell'ambito della meditazione Vipassana che non danno molto risalto alle posture del corpo se non a quella seduta. Questo significa che la consapevolezza, la concentrazione, la saggezza che si sviluppano durante la meditazione seduta, poi nel momento in cui ci si alza, potrebbero essere perse, potrebbero disperdersi, non si crea quel momentum, quell'energia, insomma, che si sviluppa nella seduta. Now, as we know already by now, the mind has a tremendous tendency to wander off, to go into the future, to go into the past, to get occupied with things that are not really related to what we're doing right now. And a mindful contemplation of postures then greatly helps to tie down the mind and to counter this tendency of the mind to wander off. Come vediamo abbastanza facilmente, la mente tende a divagare, ad allontanarsi. Quindi questa, o allontanarsi, perdersi nel passato o nel futuro, o non essere presente a quello che veramente sta accadendo. Quindi la contemplazione del corpo in qualche modo ci aiuta a trattenere la mente, come a legare la mente nel momento presente in modo che non possa scappare, non possa andare via così facilmente. No, the Buddha has certainly recommended mindfulness of postures also for another reason, namely that mindfulness satna during the four postures might help to deal with certain unwholesome mental states. And one such satna passage can be found in the first volume of the Majjhima Nikaya, section 21. Un altro motivo per cui il Buddha consigliava questa contemplazione delle posture è che attraverso lo sviluppo appunto di questa consapevolezza del corpo si riescono a contrastare determinati stati mentali negativi o non salutari della mente. E questo viene spiegato bene in un sutta, in un discorso che si trova nel Majjhima Nikaya, capitolo 1, verso 21. So, and I'm quoting, and quoting the Buddha himself, and while I dwelt there, in a forest, some shrine, etc., now a wild animal would come up to me, or a peacock would knock off a branch, or the wind would rustle the leaves. E quindi queste sono le parole del Buddha. Dice: mentre ero seduto in una foresta o in un tempio, insomma, a meditare, capitava che arrivasse un animale selvaggio, oppure che un pavone potesse rompere dei rami, o che il vento facesse rumore tra gli alberi, tra i rami. Then the Buddha thought, why do I dwell always expecting fear and dread? What if I subdue that fear and dread while keeping the same posture that I am in when it comes upon me? Allora il Buddha diceva: perché io devo sedermi, stare qui, aspettare che arrivino la paura e il timore, diciamo così. Perché piuttosto non non sviluppo la consapevolezza della postura in modo da in qualche modo affrontare questi stati mentali quando arrivano. So the point certainly here is, if fear arises, let's say in the walking posture, then one simply continues with the walking until and one is mindful of the fear until the fear has subsided. If the fear comes up during standing, one maintains the standing posture and is mindful of the fear until the fear has subsided. And the same thing goes for the other two postures. Questo cosa significa? Che se dovesse sorgere la paura mentre una persona sta camminando, allora la persona deve continuare con la camminata fino a quando la paura non sparisca. Allo stesso modo, se la paura sorge mentre si è in piedi, uno rimane in piedi fino a quando la paura non se ne va e poi cambia la posizione eventualmente. E così via per le altre due. Now, the Buddha has certainly recommended certain mindfulness of postures also in order to avoid desires and certain discontent from arising in the stream of consciousness. Quindi il Buddha consiglia questa contemplazione delle posture anche per contrastare il sorgere del desiderio o discontent. Oppure dell'insoddisfazione quando questi due stati mentali dovessero sorgere nel flusso della coscienza. In the case of fear, it's if the fear has arisen already, then we face it with mindfulness. Now, in the second case of desires and discontent, mindfulness in the postures is meant as a way of preventing those two from arising in the first place. Quindi per quanto riguarda la paura, allora quando la paura sorge, allora la contemplazione del corpo, delle posture, serve per affrontare la paura in qualche modo, dopo che è sorta. Invece per quanto riguarda gli altri stati mentali, come per esempio il desiderio, allora la contemplazione delle posture serve piuttosto a prevenire che sorga questo stato mentale. And certainly in the Itiwudaka, another short collection of rather short discourses, mindfulness of postures is recommended to overcome the hindrances, the five hindrances. E nel Itiwudaka, che è un'altra raccolta di discorsi brevi del Buddha, allora qui si consiglia la contemplazione delle posture per superare i cinque ostacoli della mente. No. On occasion, meditators are of the opinion that one should practice mindfulness only in the sitting posture, and that simply is not the case. Both the Vimuttimagga as well as the Visuddhimagga say that certain one can practice the sitting as well as walking meditation. Alcune volte, occasionalmente, un meditante può pensare che la principale postura, insomma, in cui meditare, praticare, sia quella seduta, ma non è così. Sia nel Vimuttimagga che nel Visuddhimagga viene specificato proprio il fatto che si deve praticare sia nella meditazione, sia la postura seduta che la camminata. No. A really interesting point that certainly can come up during one's practice of mindfulness of postures is to see the interrelationship of a posture the interrelationship between posture and prominent mental state. Cosa interessante che può essere osservato nella contemplazione delle posture è l'interrelazione che esiste tra la postura stessa e lo stato mentale corrispondente. So, for instance, if someone is really upset, really angry about something, and this person then does walking meditation, then he or she will notice that the walking is pretty wild, pretty rough. Per esempio, se uno sposa, se in uno stato agitato o irato, diciamo, noterà probabilmente che nella meditazione camminata ci sarà dell'aggressività, la camminata sarà un po', come dire, traballante, ruvida, agitata. To give you another example for the secondary posture or general activity, there's various ways of closing doors. You can do it really mindfully with gentleness, with full or with clear comprehension, but at times you might also find yourself slamming a door with a big bang. And that then that might be a very good indication that suddenly the mind is suddenly somewhat agitated. Oppure, per fare un esempio riguardo a una cosiddetta postura secondaria o un'attività del corpo, pensate all'aprire e chiudere le porte. Potete farlo in maniera molto delicata, molto dolce, molto silenziosa, molto consapevole, oppure potreste trovarvi occasionalmente a sbattere una porta. Beh, spesso questo, se ci riflettete, è un indice del fatto che la mente è un po' agitata. No. In the course of one's certain intensive meditation practice, and let's say if one were to practice for more than just 10 days certainly continuously, then one would find that as the practice is deepening, as it certainly is progressing, one's posture will undergo significant changes. Se uno intraprende un ritiro intensivo, cioè più di 10 giorni, potrebbe accorgersi che un po' per volta, progressivamente, ci saranno dei cambiamenti nella propria postura. So, for example, at suddenly the beginning of a retreat, there will be a lot of restlessness in the mind, and that restlessness then manifests physically by changing one's posture all the time. Per esempio, all'inizio di un ritiro ci sarà un po' di agitazione, di irrequietezza nella mente, e questo si manifesterà con un corpo che cambia continuamente posizione o è un po' agitato, irrequieto. And then, at certain times, let's say when the mind gets a bit depressed, then the sitting posture might literally collapse. Poi nell'arco della pratica la mente potrebbe attraversare un momento un po' così depressivo, e questo si rifletterà nel corpo, il corpo potrebbe proprio assumere una posizione un po', come dire, piegata in avanti, curvata. And so, now then at certain other times it's when, let's say, equanimity is quite predominant in the stream of consciousness, then a meditator might find himself or herself to sit easily in a very upright, relaxed posture, still posture, for at least an hour, if not 2 hours, or sometimes even more. Poi, quando l'equanimità sarà il fattore prevalente nel flusso della coscienza, un meditante potrebbe trovarsi a riuscire a stare seduto in una posizione molto rilassata, molto dritta, molto equilibrata, per lungo tempo, anche per un'ora, 2 ore o anche di più. No, in Burma, the venerable Sayadaw Usasana, a long-term disciple of Sayadaw Pandita, once remarked, by simply, let's say, observing or watching retreatants in a meditation hall, by simply observing how they are sitting, a meditation teacher can already make an educated guess where such and such a person's practice is at. Usasana, che è un maestro birmano, allievo di Upandita, studente di Upandita, discepolo meglio, diceva che un buon insegnante, guardando semplicemente la postura dei meditanti all'interno della sala di meditazione, potrebbe individuare con abbastanza precisione a che punto del del percorso meditativo, della pratica, si trova quel particolare meditante. No. In quale fase del proprio percorso? The Venerable Sila Upandita would make very good use of this particular knowledge and would carefully observe how yogis would do their walking meditation. So typically he would hide behind a corner and so that he wouldn't be seen by the yogis, and then carefully observe how they would do the walking meditation. And so, and that then would give him a clue as to where Ajna Yogi's practice is at. Invece Sayadaw Upandita faceva buon uso di questo strumento, diciamo, di questa strategia riguardo però alla meditazione camminata, e quindi si nascondeva dietro un angolo e guardava attentamente i meditanti mentre camminavano, e attraverso questa osservazione riusciva a capire abbastanza chiaramente a che punto fossero nella loro meditazione, nella loro pratica. No, mindfulness of foot and postures holds yet another potential in terms of foot discovery. The instruction says, when walking, one knows I am walking. And the emphasis is on I am walking. Quindi questa contemplazione delle posture ha un'altra potenzialità, diciamo, no? In ambito della scoperta, permette quindi di scoprire qualcosa di nuovo, e quindi le istruzioni dicono chiaramente: quando o mentre cammino, io sto camminando. No, that expression, I am walking, is actually misleading. Sì, questa espressione, quindi io sto camminando, può essere un po', come si dice, malintesa, può creare dei malintesi, può fuorviare. Ecco. No, when one does the walking meditation seriously over a longer period of time, what does one find? Perché quando uno fa la meditazione camminata seriamente nell'arco di un po' di tempo, cosa scopre? There is walking, and it's not I am walking. There you go, that's correct. Quindi scopre che c'è il camminare, non io cammino. Yeah, there's just the walking taking place. C'è solo il camminare che avviene. And so, along this line, the Patthisamhita Magga, which is a commentary, recommends that Satna one ask a question such as who goes, whose is this going? Il Patthisamhita Magga, che è un commentario dei testi, suggerisce di farsi questa domanda: chi è colui o colei che va? Oppure di chi è questo andare? Whose is this going? Yes, whose is this going? Whose in possessive form? Di chi è questo andare? A chi appartiene? Yes. Right. No. Mindfulness of postures can reveal yet another very important aspect, namely, and we do this all the time, as soon as some bodily discomfort arises, we change the posture. And we do it rather quickly, so that the illusion arises of a continuous comfort, bodily comfort. But in fact, the discomfort that actually is there, the dukkha that is actually is there, that gets covered up. Un'altra cosa che possiamo scoprire attraverso questa contemplazione delle posture è una sorta di abitudine che abbiamo, che è quella di muovere il corpo anche solo leggermente appena sorge un piccolo fastidio o un piccolo disagio nel corpo. Questo ci dà l'illusione che c'è una situazione di agio continua nel corpo. In realtà è un'illusione, perché il dukkha, cioè la sofferenza che è legata al nostro corpo, viene in questo modo nascosta attraverso i nostri piccoli micromovimenti di aggiustamento. No, early on, The interrelationship between mind and or mental states and posture was mentioned, and in this connection there's still one more point. If, for instance, one finds that a lot of fear is certainly present in the mind, then one could make it a point to assume a fearless sitting posture, so very upright or straight, and that then may help to drive the fear away. E quindi c'è ancora qualcosa da dire rispetto a questa interrelazione tra stati mentali e postura del corpo. Se un meditante scopre o se nota che sta sorgendo della paura nella mente, allora potrebbe decidere intenzionalmente di assumere una postura molto coraggiosa, diciamo, molto ferma, e la postura stessa potrebbe aiutarlo a in qualche modo superare lo stato mentale della paura. No, with regards to the lying posture, we have two comments given by the Buddha. The first one is to lie down mindfully at night before going to sleep, and to lie down mindfully on to lie on one's right side, and then keeping in mind the time of waking up. So the moment when the moment that one wants to wake up. Oh, so before you go, when you go to sleep, you keep in mind when you want to wake up. There you go. So it's kind of like setting the alarm. Okay. Quindi per quanto riguarda invece la postura, la posizione sdraiata, il Buddha qui dà delle indicazioni. Allora suggerisce di sdraiarsi la sera consapevolmente sul lato destro e tenere a mente l'orario in cui ci si vuole svegliare al mattino dopo. E come impostare la sveglia interna. Diciamo. Yes, right. And so give it, you can experiment with this, and you might find with some practice that sooner or later it does work to some extent. Mm. Potete sperimentare questa strategia e potreste verificare che effettivamente con un po' di esercizio poi funziona. 4 o'clock, yes. And so the mind is very subtle. If you incline it in a certain way, then it will go in that direction. Chiaramente molto sottile, diciamo. Quindi se voi la dirigete in una direzione, in un certo modo, beh, la mente va, prende quella direzione lì. Now, the Buddha further has stated with regard to falling asleep that if one falls asleep with awareness, that this helps to improve the quality of one's sleep. Il Buddha dice ancora questo riguardo al sonno, che se uno riesce ad addormentarsi consapevolmente, beh, questo aiuta la qualità del proprio sonno, aumenta la qualità del proprio sonno. Now, in terms of the walking posture, we find some information. Per quanto riguarda invece la postura camminata, qui c'è, ci sono parecchie informazioni. Troviamo parecchie informazioni. No, there are several passages in the text, in the Samyutta Nikaya, Antigha Nikaya, etc., that describe the Buddha doing walking meditation, for instance, during the daytime as well as during the night. Quindi sono diversi passaggi nei testi in cui si descrive proprio il Buddha che fa la meditazione camminata sia durante il giorno che durante la notte. And took place when the Buddha was, or the Blessed One was dwelling at Rajagaha in the bamboo grove, and suddenly then the night was fading, the Blessed One then having spent much of the night walking back and forth in the open, washed his feet, entered his dwelling and lay down on his right side, and suddenly then set his internal alarm. E quindi viene proprio raccontato un episodio nei testi quando il Buddha dimorava a Rajagaya nel boschetto di bambù, e allora si dice che al termine della notte, al finire della notte, dopo aver camminato tutta la notte, il Buddha si lavò i piedi, poi si coricò sul lato destro e in qualche modo mise la sveglia per la mattina dopo. There's also at least one passage that Sutta describes the Buddha's senior disciples doing walking meditation, each with his group of disciples, so a huge group of people. E poi in un altro punto si parla dei due principali discepoli del Buddha che facevano la meditazione camminata insieme a loro, ognuno al proprio gruppo di discepoli, che era molto numeroso. Now, when it comes to the potential of walking meditation, then there are two, apparently two passages in the Patisamvita Magga that speak of monastics who did walking meditation for one for 20 years and the other one for 16 years, and both of them became arahants. Per quanto riguarda il potenziale della meditazione camminata, viene raccontato nel Patisamvita Magga di due monastici che hanno fatto la camminata, uno per 20 anni, l'altro per 16 anni, e entrambi sono diventati degli arahant. And certainly there is also the case of Citta Thiri, so at the nun Citta, who was Satna, the daughter of a leading citizen of Raja Gaha, and having gained some faith in the Buddha's Satna teachings, having heard him teach, she then entered the order under Pajapati Gotami. Poi c'è la storia di Citta Thiri, che era la figlia di un cittadino di Rajagaha molto in vista, molto noto, che avendo sentito gli insegnamenti del Buddha decise di unirsi all'ordine delle monache guidato da Gotami, no? Pachapati Gotami. This is, what do you call that? Mother, sì, yeah. Che era la madre adottiva del Buddha. Yeah. Now, this certain lady, or later nun, Citta Thiri, or she became a nun at certain older age, and because she was so frail, she had certain difficulties practicing. E quindi questa Citta Thiri si è unita all'ordine, è diventata monaca già a una certa età, e quindi poiché era così fragile aveva delle difficoltà a praticare. And so, one day she had enough of falling sick again and again, and suddenly she made a strong determination to either gain the Dhamma or to face death. And suddenly, so then with all she mustered all of her physical and mental strength, and then mindfully crawled up Gijakuta, which is the name of a small hill. And as she was crawling up this hill, her mindfulness was unbroken. By the time she reached the hill, she gained the Dhamma and she became an arahant. E quindi questa anziana monaca era stanca di ammalarsi continuamente, quindi prese la decisione, l'impegno, come dire, o di raggiungere il Dhamma, diciamo, quindi raggiungere l'illuminazione, oppure di morire. mise insieme tutta la sua forza, la sua energia fisica e mentale e cominciò ad arrampicarsi molto lentamente, molto consapevolmente su di una collina, il cui nome non mi ricordo, di Jakuta. Sì. E ovviamente quando arrivò in cima a questa collina era diventato un arahant. No. In terms of more ordinary instructions that Satya the Buddha has given with regard to walking, meditation, there's one passage on wakefulness given in the Samyutta Nikaya. Per quanto riguarda appunto le istruzioni date dal Buddha sulla meditazione camminata, ce n'è una in particolare che si trova nel Samyutta Nikaya sullo stato di veglia, diciamo, no? Durante la camminata. And so there, the Buddha asks, and how, friend, is one devoted to wakefulness? And the answer given then is here during the day while walking back and forth and suddenly sitting, and a bhikkhu, bhikkhuni, and lay retreating purifies one's mind of obstructive states. And then the same thing for the first watch of the night and for the middle watch of the night and suddenly for the last watch of the night. Of the night. Allora, qui viene fatta una domanda a Buddha, suppongo. Yes. Si chiede com'è che allora si sviluppa questo stato di mente sveglia, diciamo, risvegliata. E la risposta è: qui una bhikkhuni praticano la meditazione seduta o camminata consapevolmente. Sia nella prima parte della notte che nella seconda parte della notte che nell'ultima parte della notte. And while walking back and forth and sitting, one is purifying one's mind of obstructive states. E quindi mentre appunto meditante o un monaco cammina avanti e indietro con la camminata o pratica la meditazione seduta, purifica la propria mente dagli stati ostruttivi della mente. To purify the obstructive states of the mind is an expression that means or involves the five hindrances. Quindi cosa si intende per liberare o purificare la mente da questi stati ostruttivi? Significa affrontare i cinque ostacoli fondamentalmente. No. When hearing this sudden instruction and remembering the instructions given on walking meditation at the beginning of the retreat, you might revolt. Sì, ascoltando queste istruzioni appena date sulla camminata, insieme alle istruzioni date all'inizio del ritiro, potreste ribellarvi. So, why is this? Because the instructions given on walking meditation clearly emphasize being mindful of the most prominent sensations occurring in the foot while lifting the foot, while moving the foot forward and lowering and placing. Now here in this passage quoted, the emphasis is on, and this quoting the Buddha, the emphasis is on purifying the mind of obstructive states, namely the five hindrances. E quindi perché questo? Perché nelle istruzioni che vi sono state date all'inizio del ritiro si diceva che nella camminata l'attenzione va posta sulle sensazioni del piede mentre si alza, mentre avanza, mentre si appoggia, quindi sulle sensazioni fisiche del piede. Mentre invece in questo passaggio, che cita proprio le parole del Buddha, si parla della meditazione camminata come un aiuto per superare invece gli inquinanti mentali o questi stati ostruttivi della mente. No, there is another passage in the Anguttara Nikaya where the Buddha gives advice to Mahamoggallana, one of his chief disciples, on how to overcome sleepiness or nodding. C'è un altro passaggio nel Anguttara Nikaya in cui il Buddha dà consigli al suo discepolo Mahamoggallana su come superare la sonnolenza durante la seduta oppure la testa che praticamente casca dal sonno. No, the Buddha says, if Mahamoggallana, the nodding does not pass, so does not stop, then with senses withdrawn, the mind not outward gone, should you fix your thought on the alley walk. Allora il Buddha dice a Moggallana, se la testa continua a cascare e non riesci a fare altro, allora con i sensi controllati e con la visione interiore, yeah, and then just fix your thought on walking up and down. Sì, allora uno fissa il proprio pensiero semplicemente sul camminare avanti e indietro. And certainly, so this instruction here is again a bit different from the instructions that are given on walking meditation at the beginning of the retreat. E anche qui questa istruzione è un po' diversa dalle istruzioni che vi sono state date all'inizio di questo ritiro riguardo alla meditazione camminata. No. Now, it appears that in most certain traditions where walking meditation is part of an intensive retreat, that today the as certain taught by modern meditation teachers, that the emphasis is much more on being mindful of various sensations that occur during the walking in the feet. Quindi sembra che adesso nella maggior parte degli insegnamenti, anche quelli più moderni, diciamo, di meditazione, si tenda proprio a consigliare, durante meditazione camminata, di concentrarsi sulle sensazioni dei piedi. Now, there's also one theory, one nun who gained the Dhamma, and in her description of attaining, there's reference how she gained, or how she was aware of the different parts of the body moving and so on, and suddenly then finally she gained the Dhamma. And so the emphasis for her was awareness of what do you say, the bones moving and certain and so on. C'è un altro esempio di un'altra monaca, un'altra Teri, che descrive come lei ha raggiunto il Dhamma, cioè l'illuminazione in altre parole. E per lei è stato una chiara osservazione e consapevolezza dei movimenti del corpo, quindi nei dettagli, quindi come si muovevano le ossa, i muscoli, eccetera. Quindi per lei quello è stato, diciamo, il punto di svolta. Now, in terms of the benefits that can be gained from walking meditation, we can refer to the Chankama Sutta, so the discourse on walking meditation, and there it speaks of five benefits. Per quanto riguarda i benefici della camminata, possiamo fare riferimento al Chankama Sutta, cioè il Sutta sulla camminata, appunto, e lì ne vengono elencati cinque. The first benefit mentioned there is that walking meditation will lead a person to have stamina to go on a long journey. Il primo beneficio è che la meditazione camminata fornirà alla persona quella energia necessaria, quella resistenza del corpo che gli permetterà di affrontare un lungo viaggio. Secondly, walking meditation is helpful to build certain effort, viriya. Inoltre, la meditazione camminata aiuterà a sviluppare lo sforzo, viriya. Thirdly, it contributes to good health. In terzo luogo, contribuisce a una buona salute. And it also helps with the digestion of food. Aiuta con la digestione del cibo. And it builds a durable concentration. e aiuta a sviluppare una, a costruire una concentrazione durevole. No. As Satna we have Satna seen already earlier on when talking about the postures in general, mindfulness of walking meditation very much helps to develop this continuity of mindfulness. E come abbiamo visto prima, parlando in generale delle posture, della consapevolezza delle posture, questa della meditazione camminata dà un grosso aiuto a sviluppare questa consapevolezza continua, momento dopo momento. Then, as certainly we can learn from the passage or the advice given by the Buddha to Mahamoggallana, walking meditation helps to dispel sloth and torpor. Come abbiamo visto dal consiglio che il Buddha ha dato a Mahamoggallana, la meditazione camminata aiuta a superare questo problema del torpore, della sonnolenza. If, for instance, one wakes up in the morning and is still a bit tired, a bit groggy, then it might be a good idea to do some walking meditation up and down, and that then will help to get the mind going. Se uno si sveglia al mattino e si sente ancora stanco, assonnato, allora può, cioè sarebbe una buona idea cominciare con una meditazione camminata, e questo darà modo alla mente di cominciare a operare. No. Balance in our practice is important, and one aspect here is that we need to pay attention to the balance of postures. In other words, the time that we spend in each posture. So, if we were to do only sitting meditation, then sooner or later we would probably get constipated and would have various health problems. But alternating sitting meditation with walking meditation then takes care of this difficulty, and thus we can practice properly. L'equilibrio è un aspetto molto importante nella pratica. Quindi bisogna prestare particolare attenzione al tempo che dedichiamo a ciascuna postura. Perché se facessimo solo la meditazione seduta, questo potrebbe provocare dei problemi fisici, di costipazione, per esempio. Si dice così. E quindi è molto importante dedicare lo stesso tempo alla seduta e alla camminata, perché questo appunto eviterà questi problemi. No. The greatest benefit that we can derive from the walking meditation, no doubt, is the arising of intuitive wisdom. So learning about the body and the mind, and in the process of doing the walking meditation, purifying the mind, and eventually this might even lead to the attainment of the Dhamma in walking. Uno dei, sicuramente il beneficio più importante della meditazione camminata è questo, lo sviluppo della saggezza intuitiva. E quindi, facendo appunto la camminata in maniera molto consapevole, si può arrivare a purificare la mente e addirittura arrivare anche a conoscere il Dhamma, quindi avere questa intuizione molto profonda. And allow me to conclude today's Satna Dhamma talk by wishing may the mindful contemplation of Satna postures, just like in the case of Citta Theory, lead us all to the attainment of Arahantship, hopefully during this retreat here in Pian di Ciliegi, if not some other retreat in the near future. Quindi concluderò questo discorso augurandovi che, proprio come Citta Theory ha raggiunto il Dhamma o lo stato di Arahant attraverso la contemplazione della postura, che anche voi possiate raggiungerlo o in questo ritiro stesso a Pian dei Ciliegi oppure in futuro. And that's